GR24, il sole 24 ore. Uno spartiacque nella storia, la caduta del muro di Berlino, secondo Napolitano. 20 anni dopo, la capitale tedesca festeggia oggi la libertà. Giustizia, all'appello del presidente del Senato Schifani, la riforma è un imperativo per la politica. Caso Cucchi e polemica per le affermazioni di Giovanardi, è morto perché pesava 42 kg. Il giallo di Via Poma svolta, 18 anni dall'omicidio di Simonetta Cesaroni, rinviato l'ex fidanzato. Calcio, dopo il pareggio con la Roma in casa Inter, tiene banco il caso Balotelli, Mourinho l'attacca e lui potrebbe andar via. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Dunque, la caduta del muro di Berlino, di cui ricorre proprio in questi giorni l'anniversario, ha detto oggi Napolitano, segnò uno spartiacque nella storia europea e mondiale del XX secolo. Parole del Presidente della Repubblica oggi nel corso di una cerimonia al Quirinale. Un grande giorno, dunque, questo in particolare per la Germania, in seguito al quale ci fu poi il crollo del muro e venne riunificata la Germania tra Est e Ovest. Un grande giorno che però, come ci racconta Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, non è una festività nazionale. Questa è una curiosità che riguarda la giornata di oggi. Beda, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci sono grandi festeggiamenti oggi a Berlino per questa caduta del muro di 20 anni fa, ma la giornata non è festa nazionale in Germania e non lo è perché così è stato deciso dall'allora governo Kohl. Il problema è che il 9 novembre è una data per molti versi nefasta nella storia tedesca, perché un 9 novembre 1938 si svolse la notte dei cristalli. E quindi quando il governo Kohl dovette decidere quale era la data, la nuova festa nazionale tedesca della Germania Unita, dovette scegliere un'altra data, quella del 3 ottobre, che è in realtà la data in cui il Bundestag, la Camera Bassa del Parlamento tedesco, decise ufficialmente l'unificazione tra le due Germanie. Quindi oggi è un po' un paradosso, grandi festeggiamenti, ma non è festa nazionale. Beda Romano, si sono visti in questi giorni molti volti noti della politica internazionale. Il governo tedesco ha comunque fatto le cose in grande per questa celebrazione. Oggi, in particolare, che cosa accadrà? Ma oggi è già accaduto un paio di cose. C'è stata un servizio religioso in una chiesa di Berlino, un servizio religioso protestante e cattolico a cui hanno partecipato il cancelliere Angela Merkel e il presidente della Repubblica Horst Köhler. E poi nel primissimo pomeriggio ci sarà una passeggiata della signora Merkel attraverso un ponte della città, in un punto dove passava proprio il muro di Berlino e dove le persone potevano quindi transitare tra est e ovest. La signora Merkel compierà questa passeggiata in compagnia di alcune delle persone che il 9 novembre 1989 erano presenti e attraversarono per primo il muro di Berlino. Poi alle 17 c'è un incontro ufficiale tra il presidente Köhler e i 27 capi di Stato dell'Unione Europea che partecipano alle celebrazioni di oggi, e poi alle 19, quindi alla sera alle 7, sono previsti alcuni discorsi davanti alla porta di Brandeburgo, dove d'altronde passava il muro di Berlino. Certo. Ci sarà un discorso del cancelliere Merkel e di altre personalità europee. Grazie allora a Beda Romano da Francoforte per il racconto di questa giornata speciale per la Germania e per il mondo intero. Torniamo però in Italia per parlare di giustizia, prima facendo il punto sulle iniziative della maggioranza in tema di riforma della giustizia e poi con le novità sul caso di Stefano Cucchi. Cominciamo allora con la politica. Oggi appello del Presidente del Senato sulla necessità di una riforma, poi è intervenuto anche il Ministro Alfano. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Dibattito sulla giustizia più che mai in primo piano nella maggioranza a far discutere le parole dei presidenti di Camera e Senato. Ieri Fini, che ha fatto capire di essere contrario al cosiddetto nuovo scudo per Berlusconi, a cui sta lavorando Niccolò Ghedini, ossia la legge che sostanzialmente accorcia i tempi di prescrizione dei reati. Oggi invece l'appello di Schifani affinché si metta mano alla riforma della giustizia. La politica, dice il presidente del Senato, è chiamata a questo appuntamento, un appuntamento storico, un appuntamento che deve essere rispettato. Il presidente del Consiglio Berlusconi dal canto suo accelera. Domani si dovrebbe tenere un vertice proprio tra i leader del centrodestra per verificare se esiste nella maggioranza una visione comune agli alleati. Il premier dovrebbe chiedere un impegno chiaro e deciso su 5 punti, ricordati questa mattina anche dal ministro della giustizia Alfano: la riforma del processo penale e delle intercettazioni, la riforma costituzionale della giustizia, la riforma del meccanismo di elezione del CSM, la durata dei processi. Dalla Lega un nuovo appoggio a Berlusconi: deve essere messo nelle condizioni di governare perché così ha deciso il popolo, spiega il ministro Calderoli. Le norme sulla prescrizione rischiano di essere un'amnistia, replica dal PD la Finocchiaro. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E come dicevamo, nella giustizia c'è anche il dibattito attorno al caso Cucchi. Al vaglio della Procura di Roma, alcune frasi contenute nella cartella clinica di Stefano potrebbero essere state aggiunte in un secondo momento, e oggi dovrebbero essere interrogati 2 detenuti che hanno avuto contatti con il giovane. Sentiamo. Le indagini sono in corso, ripete il ministro Alfano, mentre emergono nuovi particolari. Le cartelle cliniche, per esempio, alcune aggiunte sarebbero sospette, e poi quel rifiuto di avvisare la famiglia. Agli atti risulterebbero 2 diversi documenti dell'ospedale Pertini, uno in cui è presente la firma per non avere contatti con la famiglia, l'altro in cui non c'è traccia della firma di Stefano. La Procura di Roma vuole vederci chiaro e stabilire se quella firma è autentica, ma gli avvocati della famiglia Cucchi, pur condividendo le perplessità della Procura, non ritengono che le cartelle possano diventare la chiave di volta, come spiega Dario Piccioni, uno dei 2 legali. È vero che abbiamo individuato alcune incongruenze, credo però che non si possa prescindere da una valutazione di tipo medico-legale complessiva sulla gestione del paziente, perché nel frattempo è diventato un paziente. Attenzione quindi sul paziente, perché se è necessario capire cosa sia successo nell'arco temporale che va dall'arresto all'arrivo in carcere, bisogna anche capire perché, date le condizioni di salute, Stefano non sia stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Succede spesso che chi ha problemi di droga, se arriva in ospedale, venga abbandonato a se stesso. Il caso di Stefano poi ha un elemento in più. Qui non è soltanto l'aspetto dell'eventuale stato di tossicodipendenza, è un approccio più detentivo che non curativo. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore. E proprio oggi a Radio 24, a 24 mattino, è intervenuto il sottosegretario Carlo Giovanardi, che a proposito della vicenda di Stefano Cucchi ha detto: è morto perché pesava 42 kg. Era in buone condizioni di salute, è stata invece la replica del legale della famiglia, avvocato Dario Piccioni. Ma sentiamo le affermazioni di Giovanardi. Stefano Cucchi era di casa perché spacciava, era uno spacciatore abituale, poveretto è morto, la verità verrà fuori come, soprattutto perché era 42 kg, lui, l'air droga ha devastato la sua vita, era sieropositivo, comunque era tossicodipendente, questo era neuretico. La famiglia l'ha smentito questo, eh? No, la famiglia non l'ha smentito niente, perché è stato in comunità, lui aveva dei grossi problemi. Sulla sieropositività. In quei 5 giorni peggiorato, certo che bisogna vedere i medici come l'hanno curato. Purtroppo sono migliaia le persone in comunità che si riducono in situazioni drammatiche con l'uso della droga, diventano delle larve. E parliamo ancora in qualche modo di giustizia, di come in alcuni casi sia difficile arrivare e accertare la verità. È il caso del delitto di Via Poma. A quasi 20 anni dall'omicidio di Simonetta Cesaroni ci sono delle novità. Ce ne parla Alessandra Schepisi. Buongiorno. Buongiorno, una vera e propria svolta in questo delitto che risale a bene 19 anni fa. Raniero Busco è stato rinviato a giudizio, sarà processato il 3 febbraio prossimo davanti ai giudici della terza corte di assise. L'accusa: omicidio volontario dell'ex fidanzata Simonetta Cesaroni, trafitta da 29 coltellate il 7 agosto 1990 in via Poma a Roma. Secondo i consulenti dell'accusa, la scata dentale di Busco è compatibile con la traccia di un morso lasciato sul seno di Simonetta Cesaroni. Questo questo uno degli elementi che avrebbe portato al rinvio a giudizio dell'ex fidanzato della segretaria romana. Ulteriori elementi di accusa sono scaturiti dall'esame del reggiseno che Simonetta Cesaroni indossava al momento del delitto, sul quale sono state trovate tracce di saliva corrispondente al DNA di Busco. Una svolta resa possibile dunque dalle nuove tecniche investigative che hanno impresso un'autentica accelerazione alle indagini. Ricordiamo che Simonetta nel 90 aveva 21 anni, il suo corpo fu trovato nella palazzina di Via Poma, negli uffici degli ostelli della gioventù dove lavorava. Quanto a Busco, oggi ha 44 anni, sposato, due figlie, lavora presso l'aeroporto di Fiumicino, non si è presentato all'udienza preliminare e si è sempre proclamato innocente. Per il suo avvocato Paolo Loria sarebbe stato incastrato, esistono solo mezze prove, dice il legale, e nel processo faremo emergere tutte le contraddizioni. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie dunque Alessandra Schepisi, e continuiamo a parlare di cronaca, perché a Bologna la città è alle prese con un problema che ritorna: i topi. 180 interventi di deratizzazione in corso, un migliaio di trappole sparse per la città, 130.000 euro spesi da gennaio ad oggi, altri 35.000 in preventivo entro fine anno. Sono i numeri della battaglia contro i topi che ha ingaggiato il comune di Bologna, alle prese con una vera e propria invasione che assedia in particolare il centro storico. Nella task force messa in piedi da Palazzo D'Accursio per monitorare il fenomeno, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, si parla di decine di migliaia di ratti uccisi dall'inizio dell'anno. Il modello a cui si guarda è Venezia, dove nel 2005 il sindaco Cacciari decise di coinvolgere i privati nella battaglia anti-ratti. Almeno due deratizzazioni l'anno per tutti gli esercizi pubblici e cantieri edili, controlli accurati in immobili e terreni abbandonati. Per Bologna l'obiettivo è quello di varare un'ordinanza simile nel 2010. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. È il momento del nostro sondaggio. Oggi vi abbiamo interpellato sui test antidroga per i politici e non solo, queste le vostre risposte. Anni di politiche antidroga, ma i risultati, almeno a quanto certifica l'Osservatorio Europeo, in Italia fanno fatica a vedersi. Abbiamo scoperto che siamo tra i maggiori consumatori di stupefacenti in Europa, ha certificato l'ultima relazione, e così ecco rialzare la testa il fronte degli antiproibizionisti. Forse è il caso di legalizzare le droghe, almeno quelle leggere? Ma voi che ne pensate? Liberalizzereste la droga? Vi siete spaccati, il 52% di voi ha detto di sì nel nostro sondaggio di oggi. Nettamente contrario il sottosegretario Carlo Giovanardi. Oggi sappiamo i danni cerebrali che fa la droga, abbiamo le evidenze scientifiche che chi si droga è pericoloso per se stesso e per gli altri. Ci mancherebbe altro che lasciassimo andare i guidatori dei pullman, i piloti d'aereo o le notti del sabato le persone in giro ubriaco drogate. Bianco o nero torna domattina alle 8.30 per votare, radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Stasera in TV torna il teatro con uno spettacolo di Marco Paolini che parla anche della crisi. In diretta TV, senza interruzioni pubblicitarie, dal vivo, dal terminal container del porto di Taranto, Marco Paolini si esibirà in Miserabili, io e Margaret Thatcher, uno spettacolo che parla non solo ma anche di crisi, come ha spiegato lo stesso Paolini a Marta Cagnola. Io non faccio un instant book della crisi economica, ragionavo. E a maggior ragione dopo quello che è successo un anno fa, ragiono su come l'economia è arbitra pesante della nostra vita. La lettura che ne fanno gli spettatori è che sto parlando del loro portafoglio danneggiato dalla crisi, mentre non voglio levare un peana in difesa dei risparmiatori. Quello che sto dicendo io è che il sistema così come è costruito è troppo fragile. Razzismo, intolleranza, omofobia o quanto si dice, sono sintomi di una miseria che deriva dalla mancanza di speranza. Allora il mercato è fantastico per risolvere i miei problemi, ma se mi limito a quello, creo un insieme di persone che non hanno niente da investire sul loro futuro al di là di qualche offerta speciale, e questo è fallimentare, è così come fallimentare è rinunciare alla speranza. Quindi dichiaro guerra alla miseria. Accumula come si dovesse campare all'infinito, fissa una cifra, niente largo ma fissa una cifra, dopo stacca. Se ci abbiamo messo qualche migliaio di anni a costruire società, noi in Europa, di vederle buttare via così, in nome di una libertà orfana, mi puzza un po', signora. 13 e 19 minuti, GR24, ben ritrovati. La seconda parte, nella prima parte ci siamo occupati del festeggiamento che si svolgeranno oggi a Berlino per i 20 anni dalla caduta del muro e anche delle parole di Napolitano che ha detto: la caduta del muro fu uno spartiacque nella storia dell'Europa e del mondo. E poi la giustizia in primo piano ancora all'iniziativa del governo con l'appello del presidente del Senato Schifani. La riforma della giustizia è un imperativo categorico per la politica, ha detto il presidente del Senato. E poi il caso Cucchi, si indaga ancora per accertare la verità su quello che è accaduto. E poi c'è la polemica dopo le affermazioni di Giovanardi che a Radio 24 ha detto: Cucchi è morto perché pesava 42 kg. Abbiamo parlato anche delle novità nel giallo di Via Poma, 19 anni dall'omicidio di Simonetta Cesaroni, rinviato a giudizio l'ex fidanzato. Adesso tutte le altre notizie, a cominciare dall'influenza A. E un anziano affetto dal virus, che soffriva tra l'altro di altre patologie, era cardiopatico e diabetico, è morto in Umbria all'ospedale di Branca. Si tratta della seconda vittima nella regione. Facciamo però il punto con l'esperto intervenuto oggi a Essere e Benessere su Radio 24. Si tratta di Stefania Salmaso, direttore del Centro di Epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità. Chiaro. Primo, il rischio per ognuno di noi di prendersi l'influenza è elevato perché sta circolando nel paese. L'influenza è per lo più però di tipo lieve, quindi non c'è nessuna preoccupazione, se non in casi molto particolari, di eventi assolutamente indesiderati, quindi di non essere troppo ansiosi da questo punto di vista. Secondo, tra le contromisure che ci vengono offerte abbiamo una vaccinazione che è sicura ed efficace, che però proprio per questo non è offerta comunque a tutta la popolazione, ma per proteggere chi ha maggior rischio. Quindi coloro che ricevono l'offerta di vaccinarsi la valutino con la massima serenità. Così la dottoressa Salmaso sulla influenza A. E dopo che venerdì scorso il governo ha licenziato i fondi per le infrastrutture, banda larga però esclusa, il tema è stato rilanciato dal ministro per lo sviluppo economico Scajola. Ma quanti sono realmente gli investimenti necessari? Sentiamo. Con gli 800 milioni di cui si riparla in questi giorni, il governo potrebbe ridurre il cosiddetto digital divide. Si tratta di un primo capitolo di investimenti perché per portare collegamenti ad internet in banda larga quel 12% di italiani che ancora non hanno la DSL o altri sistemi alternativi servono in totale circa 1,5 miliardi di euro. Questo piano di investimenti al momento congelato potrebbe dare lavoro a 50.000 persone. Ma la vera sfida del paese non è tappare i buchi dell'attuale rete, bensì costruire un network in fibra ottica ad alta velocità che sostituisca cavi di rame vecchi di 40 anni e ci prepari al futuro. Per questo la chiamano rete di prossima generazione. Le cifre in ballo in questo caso sono nell'ordine dei miliardi. Una delle ipotesi formulate in primavera da Francesco Caio, consulente del governo britannico e di quello italiano, parla per il nostro paese di 10 miliardi da investire in 5 anni per portare fibra ottica a 10 milioni di famiglie. Soldi che secondo una stima OCSE avrebbero un impatto sul prodotto interno lordo 4 volte superiore. E se il primo capitolo è per ora congelato, quanto impiegheremo per scrivere tutto il libro? Enrico Pagliarini, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo di scuola. Da oggi graduatorie rivoluzionate come stabilito da ricorsi e sentenze del TAR. 300 precari verranno inseriti secondo il punteggio effettivamente maturato. Entro un mese ne saranno inseriti altri 7.000, così ha stabilito il TAR. E almeno su questi primi inserimenti però non dovrebbe avere alcun effetto il decreto salva precari disposto dal ministro Gelmini per porre un freno proprio a questi ricorsi. Ma che cosa succede di fatto adesso? Ce lo spiega Marcello Pacifico, presidente della ANIEF, associazione dei docenti che ha promosso i ricorsi al TAR. Lo Stato si ritrova a pagare per errore del ministro 2 stipendi per la stessa cattedra. Quindi per un posto vengono pagate 2 persone e vengono attribuiti i punteggi a 2 persone. Allora, non è che lo Stato richiede i soldi indietro al docente che ha assunto, né levi il punteggio al docente che ha assunto. Di fatto, all'altro docente che ne aveva diritto gli dà il punteggio e gli dà pure lo stipendio nel caso in cui dimostri che sia stato disoccupato proprio per colpa dello Stato che ha compilato erroneamente la graduatoria. Per quanto riguarda la continuità didattica, di fatto ci potrebbero essere dei problemi, perché di fatto si potrebbe interrompere il rapporto con i ragazzi e con la scuola in quel momento, giusto? Ma no, questo no, perché l'amministrazione in questi casi, almeno in base all'esperienza che abbiamo avuto in passato, cosa fa? Mantiene quell'insegnante su quella cattedra e al ricorrente che avrebbe diritto a quella cattedra o gli dà una cattedra nuova oppure gli dà una nomina giuridica, cioè quella persona sta a casa ma di fatto come se avesse lavorato e quindi lo paga a vuoto. Così Marcello Pacifico, presidente della ANIEF, al microfono di Maria Piera Ceci. E siamo allo sport con il calcio. Il campionato lascia spazio alla nazionale che si prepara alle due amichevoli di avvicinamento ai mondiali contro Olanda e Svezia. Nell'Inter, bloccata ieri sera dalla Roma sul pareggio, nasce l'ennesimo caso Balotelli, ancora obiettivo delle critiche di Mourinho. Il tecnico portoghese prima infilza il suo giovane attaccante affibbiandogli un voto zero per la prestazione contro la Roma, poi lo finisce bocciando nell'atteggiamento. Capisco la difficoltà di un stanco Milito, di un stanco Eto'o. Mi sembra che un ragazzino come Mario, che ha giocato solo 45 minuti oggi e 45 minuti a Kiev, poteva avere un pochettino più di mentalità, di sacrificio e di grinta per lavorare per la squadra. Tra i due la frattura è sempre più ampia. Mourinho è stanco della linea morbida e non perde occasione per bacchettare il giocatore. Balotelli, che peraltro in questi giorni è debilitato da un'influenza che sta curando con antibiotici, è sempre più sotto pressione e non riesce a rispondere con continuità sul campo ai fendenti del suo allenatore, che continua a sostenere di essere più esigente con i giocatori di grande talento e adesso chiede addirittura aiuto alla stampa. La battaglia psicologica è continua, l'impasse totale. Per uscirne forse la soluzione per Balotelli potrebbe essere quella di cambiare aria, magari solo per qualche mese. Così prende quota l'ipotesi Londra da gennaio per provare i metodi di un Wenger all'Arsenal o di uno Zola al West Ham, sicuramente più adatti di Mourinho a gestire giovani e problematici talenti. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Chiudiamo con un appuntamento che riguarda la giornata del 9 novembre, anniversario della caduta del muro di Berlino, di cui abbiamo già parlato naturalmente. Da oggi e fino al 22 di novembre a Milano, la Loggia dei Mercanti ospita la mostra Linari 24 Ore, intitolata I graffiti del muro di Berlino. 50 fotografie storiche di murales, graffiti ormai perduti, scattati sulla parete ovest del muro nel 1987. L'esposizione fa parte del progetto Breaking Walls, promosso dal Ministero della Gioventù. L'organizzatore dell'evento, Francesco Moneta, al microfono di Adriana Fracchia. Con due tipologie di evento. La prima è una mostra tratta dai graffiti del muro di Berlino, dove ci sono scatti fotografici che vengono dall'archivio Linari, fotografati 2 anni prima che il muro venisse abbattuto e che rappresentano una parte di quello che nella parete occidentale era stato disegnato, scritto da writers, da artisti e da gente comune di tutto il mondo. E accanto in Via dei Mercanti c'è invece un'iniziativa più interattiva, sempre dedicata, diciamo, al linguaggio giovanile, della street art, che prevede che 11 writers si misurano con il tema Breaking Walls, ovvero il tentativo di ricordare che questo concetto del rompere i muri e di abbatterli non riguarda solamente qualcosa che accade 20 anni fa, ma è tutto sommato un problema ancora odierno, dove ci sono molti muri con la M minuscola che spesso attentano alla libertà dell'uomo e a un problema sui diritti umani che vale la pena di essere ricordato e condiviso con le giovani generazioni. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata da Alessio Maurizi, che era anche in studio, il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Carmelo Lauricella. Adesso arriva Buongiorno America con Stefano Pistolini.